Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note del concerto numero 5 di Beethoven iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno a Roberto Ruozzi, l'ospite di oggi. Buongiorno professor Ruozzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beethoven è una musica classica, le piace molto la musica classica? Sì, io sono un appassionato di musica, considero Beethoven il genio assoluto in materia di musica classica, come considero Verdi il maestro della lirica. Il concerto numero 5 è una delle espressioni più interessanti di combinazione fra solista e orchestra. Solista e orchestra è qualcosa che ci vorrebbe molto anche nella gestione della politica italiana e degli affari italiani. Roberto Ruozzi, presentiamolo innanzitutto, attualmente presidente del Touring Club Italiano, rettore emerito della Bocconi, di cui è stato anche professore, probabilmente insegna ancora in Bocconi qualcosa. Beh, faccio qualche exploit ogni tanto, ma a livello di sfizio assoluto, non più di professione in senso proprio. È stato anche presidente, consigliere di amministrazione di banche, istituti di credito, esperto del mercato monetario e creditizio e quindi anche un po' delle crisi attuali. Beh, esperto in crisi è una cosa che non è molto brillante, però diciamo che ho studiato a fondo questa crisi. Sia la fase iniziale, quando è partita nel 2007, ho scritto anche un volume per la casa editrice Spirali sul primo anno di crisi. Il volume, che si chiama Viaggio nel mercato finanziario, è stato pubblicato appunto a fine 2008 e nel prossimo mese vedrà l'uscita un nuovo volume sempre con Spirali, che si chiamerà Intermezzo, che sarà un bilancio di 3 anni di crisi bancaria. Quindi il fenomeno visto in un momento che io considero vicino all'uscita dal tunnel. Ecco, magari parleremo più avanti anche di questi problemi economici, però io proprio prenderei spunto da questo viaggio, lei dice proprio nelle prime righe del volume: il viaggio è da sempre una componente importante della mia vita, ho infatti viaggiato molto, conosco il mondo, la conoscenza ha arricchito il mio spirito. Quindi diciamo, poi prosegue ovviamente, diciamo, lei è arrivato alla presidenza del Touring Club Italiano al posto giusto, l'uomo giusto al posto giusto. Ma questo lo si vedrà a posteriori, come in tutte le cose. Diciamo che sono entrato in un momento difficile, ho cercato di fare del mio meglio. Sa, la vita delle associazioni, come il Touring, è una vita difficile. Oggi l'associazionismo non è più di moda come lo era un tempo, la concorrenza anche in argomento è forte, i media, i modi di comunicazione si cambiano e si moltiplicano con rapidità sconcertante, per cui abbiamo di fronte sfide importanti che stiamo appunto giocando. Ecco, il Touring è una grande realtà storica nella tradizione italiana, più che centenario, ha fatto molto per promuovere il turismo, per promuovere la cultura del viaggio e quindi anche la passione per il bello, per il gusto, che sono un po' nella realtà italiana. Qual è stata e qual è un po' la sua ispirazione nell'essere presidente di questa associazione? Ma la mia, diciamo, il motivo fondamentale della mia presidenza è stato proprio quello di cercare di attualizzare gli obiettivi dei fondatori. Non tutti sanno che appunto nel 1894 i fondatori del Touring Club diedero al sodalizio degli obiettivi che sono di un'attualità sconcertante, cioè appunto far conoscere l'Italia agli italiani, difendere il paesaggio, fare del paesaggio elemento della cultura, viaggiare come strumento di conoscenza di luoghi, di siti, ma anche di persone, quindi strumento di dialogo e al limite anche strumento di pace. Ecco, tutte queste cose qui, diciamo, scritte nello statuto 116 anni fa, sono di un'attualità sconcertante, per cui credo che vadano riprese, mutatis mutandis, perché i tempi sono cambiati, ma credo che il mondo ne abbia ancora un grande bisogno, anche l'Italia, anche il nostro paese, esattamente. Ecco, anche l'Italia è un paese un po' fermo, in cui magari c'è molto turismo, si viaggia molto, però come mentalità è una mentalità forse un po' ferma, un poco dinamica, ci vorrebbe un maggior coraggio forse anche nell'affrontare questi temi, appunto la valorizzazione del patrimonio. Si è fatto comunque molto in questa prospettiva. Sì, ma l'Italia vive due crisi fondamentali da questo punto di vista. Uno è la mancanza di una regia politica, il decentramento dei poteri Stato-Regione, il conflitto che c'è, il fatto che sia stato fatto un ministero, ma un ministro senza portafoglio, per cui diciamo non c'è una cabina di regia che si ripercuote anche sulla promozione, soprattutto all'estero. E che d'altra parte fa sì che si spendano un sacco di soldi con dei ritorni estremamente bassi. Dall'altro c'è un problema degli investimenti che languono sia nel settore degli investimenti pubblici, le infrastrutture famose, certo. Perché non basta avere degli attrattori importanti, occorre che questi siano agibili, avvicinabili, gestibili fisicamente con facilità. E dall'altra parte occorre che anche gli operatori privati investano. Si considera che circa metà del patrimonio alberghiero, quindi le strutture ricettive italiane, che sono 30-35 mila, sia obsoleto. Ecco, allora vogliamo avere i cinesi, sì, vogliamo avere i cinesi, ma per avere i cinesi occorrono alberghi per cinesi, che sono diversi da quelli che per ospitare gli americani. Ecco, manca un grande progetto in fondo attorno al turismo. Sì, si fa un gran parlare, si continua a parlare, tutti sanno che cosa dovrebbe essere fatto, ma non fa niente nessuno, o quasi niente. Ecco, invece le mete turistiche dei grandi viaggi organizzati potrebbero essere le Canarie, le Baleari, le isole greche, la Tunisia, il Marocco, ma l'Italia non è una grande meta turistica, è un turismo di elite che certamente è importante e che però non fa massa economica. Beh, da quel punto di vista noi siamo strutturalmente perdenti, perché non siamo competitivi dal punto di vista dei costi. Chi vuole bel mare, bel sole, mangiare decentemente, una buona musica la sera, evidentemente a prezzi che sono n volte inferiori a quelli in Italia, va nelle destinazioni che lei ha citato. Noi dobbiamo orientarci su altre questioni, dove siamo, non dico monopolisti, ma leader assoluti. Ecco, da questo punto di vista dovremmo in qualche modo organizzarsi, mentre non lo siamo. Ecco. Quindi manca appunto questa strategia di fondo. Ma tornando un po' a Roberto Ruozzi come persona, tra i tanti viaggi che lei ha fatto, al di là delle mete turistiche, quale le è rimasto nel cuore? Ma guardi, io ho viaggiato molto, ho fatto viaggi lunghi, viaggi corti, viaggi alla porta di casa, viaggi dentro le città. Direi che io li seleziono sempre con grande precisione, soprattutto da un po' di anni a questa parte, da quando ho cominciato a saper viaggiare, perché anche viaggiare è un conto, saper viaggiare bene è un altro. Incontri di Gianfranco Fabi. Ecco, sulle note di questo concerto di Beethoven, il concerto numero 5 per pianoforte e orchestra, riprendiamo il nostro incontro con Roberto Ruozzi, presidente del Touring Club Italiano, rettore e professore della Bocconi, presidente di società finanziarie, bancarie, scrittore, ha scritto libri proprio sul sistema finanziario. E ci siamo lasciati con una domanda: tra i tanti viaggi che Roberto Ruozzi ha fatto, qual è la meta che ha più nel cuore, la meta a cui non rinuncerebbe e che forse vorrebbe tornare a visitare nei prossimi tempi? Beh, guarda, ne cito due che hanno un impatto soprattutto naturalistico. Uno, la traversata da Lhasa a Kathmandu nell'Himalaya in tempi in cui non c'erano elicotteri o altre cose di questo genere qui, ma si faceva con delle scassatissime Toyota su strade che non c'erano, e un viaggio in Antartide con un rompighiaccio russo in mezzo alla natura assoluta, selvaggia, senza incontrare essere umano, nel silenzio assoluto, soli con se stessi e con il mondo, ecco, e quindi, con anche l'aldilà. Quindi viaggi più d'avventura che di conoscenza. Beh, più no, di... Io non sono mai andato in viaggi di vera avventura, sono sempre stato un po' coi piedi per terra, ecco, anche quando sono andato nei deserti, in queste cose qui, però diciamo vicino all'avventura, ecco. Poi ci sono quelli culturali e quelli vicini. Io ho fatto un weekend nel Parmense, ecco, ritornando a visitare Fontanellato, Soragna, Rocca Bianca, questi straordinari ricordi artistico-storici alle porte di casa che pochi conoscono, nonostante la straordinaria attrattività. Poi sa, lì vicino si mangia anche bene, certo. C'è gente piacevole. E non è male mangiare si bene. Si va alla ricerca del culatello supremo, che è un fatto importante. Ecco, perché in fondo l'Italia ha un po' tutto, forse non certo gli estremi dell'Antartide o dell'Himalaya, però si possono trovare ghiacciai e le valli sperdute, come si possono trovare appunto le città d'arte, si possono trovare delle spiagge non forse caraibiche, ma quasi. Quindi l'Italia avrebbe veramente tutte le doti per poter diventare un paese turistico. Come mai invece Spagna o Francia sono ancora superiori come numero di visitatori, numero di turisti, come capacità di attrazione? Beh, sono proprio i discorsi che facevo prima. C'è una regia politica molto precisa, c'è una promozione efficace e ci sono stati degli investimenti importanti, forse addirittura eccessivi, perché adesso la Spagna non è certamente messa meglio di noi. La Francia tiene, la Grecia ha fatto la fine che tutti sanno, per cui... Beh, resta una grande meta turistica. Sì, ma può darsi che proprio la crisi di questi paesi, come la crisi della Thailandia, piuttosto che quella di altre destinazioni, in qualche modo faccia cambiare anche certe decisioni di destinazione da parte degli italiani, per cui nonostante tutto potrebbe darsi che un aumento della domanda per l'Italia ci sia, magari da parte degli stessi italiani. Ecco, lei parla di mancanza di un progetto, di una strategia, di avere una visione in fondo. In questo un po' di responsabilità c'era anche la scuola, l'università, chi prepara i giovani a entrare poi nella carriera, poi nelle aziende, nella politica anche. Allora, da ex rettore della Bocconi, una delle università più prestigiose non solo d'Italia ma d'Europa, del mondo, qual è il suo giudizio sulla realtà educativa italiana, sui giovani adesso? Allora, intanto diciamo che dal punto di vista turistico il problema si pone addirittura prima. Io ho studiato attentamente il problema di quelli che io chiaggio viaggi di istruzione e che volgarmente vengono chiamate gite scolastiche. È un universo incredibile. Forse non tutti sanno che in Italia viaggiano ogni anno 1.300.000 persone per un fatturato di 200-300 milioni di euro, quindi una roba importante, fatta nel modo più artigianale, più improvvisato possibile, senza alcun collegamento con i percorsi formativi scolastici e quindi probabilmente senza educare i ragazzi al viaggio. E al viaggio come strumento di arricchimento personale. Sì, è più un'evasione. Più sì, ecco, vabbè, questo è benissimo. Allora certo. si va appunto in Costa Azzurra, si vede Nizza, si risolve il problema, cosa poi se ne trarrà successivamente nessuno sa. A livello universitario la cosa è poi, secondo me, stata gestita anche qua con una certa improvvisazione, perché diciamo, prima di turismo non si occupava nessuno, poi a un certo punto hanno cominciato a capire che il turismo poteva avere un mercato importante, sono nati 120-130 corsi universitari di primo, di secondo livello, master turistici, in numerosissime facoltà, lettere, economia, scienze politiche, eccetera, eccetera. Col risultato che adesso abbiamo una produzione di laureati in questo settore largamente eccedente i fabbisogni, si occupano da altre parti, anche perché diciamo che uno delle pecche dell'industria turistica italiana è che le risorse umane impiegate sono mediamente non di grande qualità. I laureati sono in percentuale minima rispetto ai nostri concorrenti di cui si parlava prima. Eppure da un profilo strettamente economico, in primo piano in questi giorni sono i problemi degli equilibri economici, dei conti pubblici, dei rapporti monetari. Ecco, da un punto di vista economico il turismo sarebbe fondamentale per la crescita dell'economia italiana e della società italiana. Ma guardi, già così com'è il turismo vale comunque il 10, l'11, il 12% del PIL e forse ancora di più in termini di occupazione. Ecco, coi tempi che corrono credo che bisognerebbe fare tutto quanto possibile per cercare perlomeno di non retrocedere, se non di sviluppare questo settore in cui abbiamo delle potenzialità incredibili. Ecco, Roberto Rozzi è esperto di economia e di finanza. Allora, abbiamo parlato appunto della situazione italiana, della situazione dei conti italiani, di questa crisi che ha colpito prima gli Stati Uniti, pensavamo che fosse una crisi americana, poi ci siamo trovati la crisi in casa nei paesi europei. Non le chiedo di fare il profeta, ma un po' l'indovino sì. Come vede i prossimi mesi, il prossimo periodo? Ma guardi, come prima le dicevo, io ho dato al mio nuovo libro il titolo di Intermezzo, perché considero questa crisi finanziaria come un intermezzo fra atti di una commedia che continuerà, che nel primo atto, cioè quello prima dell'intermezzo, era stata di sviluppo anarchico, in cui tutto era permesso e che poi è giunta fatalmente a una resa dei conti, senza in realtà che nessuno se ne fosse sostanzialmente accorto, perché a posteriori tutti sapevano che avrebbe dovuto accadere, qui e là i soloni sono moltiplicati, ma nel mezzo del problema nessuno aveva detto nulla in proposito, nulla di serio. E un secondo atto, che sarà quello che ci sarà dopo la crisi, che rappresenta a mio avviso un ritorno alla normalità, con le selezioni che nel frattempo sono state fatte, molti sono stati cacciati fuori dal mercato, sono impiantate nuove regole. Si è capito forse che occorrono orizzonti decisionali più lunghi, che la speculazione non è sempre positiva, che certe forme tecniche di investimento hanno dei rischi che, se mal utilizzate, possono diventare delle bombe. Ecco, io credo che dal punto di vista finanziario noi siamo vicini alla fine della crisi. Il problema è ancora, secondo me, quello della crisi dell'economia reale, che in verità ha già avuto degli interessanti sintomi di risveglio. Ecco, bisognerebbe che la finanza si occupasse anche di questo. Finora si è occupata dei suoi problemi, dimenticando completamente i problemi dell'economia reale. Ecco, se adesso, che in qualche modo potrebbe avere risolto i suoi problemi, si occupasse di aiutare la soluzione dei problemi dell'economia reale, forse potremmo vedere il secondo atto con un certo ottimismo e con una certa tranquillità. Cioè, che non diventerà un dramma, resterà appunto una commedia all'italiana, possiamo dire, perché è in fondo quella cosa che si svolge anche con un po' di serenità sullo sfondo. Quindi con una finanza che potrà tornare ad essere uno strumento, una cinghia di trasmissione tra le famiglie e le imprese, tra le imprese e il sistema economico. Quindi una finanza un po' ricondotta alla ragione. C'è stata un po' troppo di esuberanza razionale, come dicevano. La finanza è nata per essere al servizio dell'economia reale, non per essere al servizio di se stessa o di chi la manovra. Ecco, dovrebbe tornare ad essere così. Ecco, forse nell'università si è insegnato un po' troppo la finanza e la matematica collegata all'economia, l'economia come qualcosa di chiuso in cui la persona aveva forse un ruolo quasi secondario. Ecco, questo è un fatto che a posteriori è drammatico. Io sono sempre stato utilizzato nei miei studi i metodi matematici elementari, quelli che si usavano ai miei tempi, che oggi sarebbero chiaramente superati, ma sempre come strumento per verificare certe tesi, e l'esperienza ci sta dimostrando che i modelli matematici fini a se stessi, senza interpretazione del pilota umano, possono condurre a disastri assoluti. Cioè, la borsa ha avuto esempi clamorosi anche recentemente in questo senso, e in effetti credo che i grandi econometrici, i grandi matematici siano un po' in crisi, perché il mondo, gli stati, le imprese hanno soprattutto bisogno di uomini, poi certo, anche di strumenti. Di uomini e quindi soprattutto di emozioni, di passioni, di capacità di capire il mondo, di trovare delle soluzioni nuove a problemi nuovi. Lei in questo è ottimista, diciamo, sulla realtà italiana, sugli italiani. No, i dati servono per elaborare delle decisioni, per conoscere, ma ciò che si conosce, ciò che si decide, deve essere deciso dal cervello dell'uomo autonomamente. Ecco, se ci si affida a uno strumento automatizzato, io credo che si corrano dei rischi clamorosi. come, ripeto, è stato verificato ampiamente in questi ultimi tempi. Speriamo che appunto l'intelligenza delle persone possa saper utilizzare tutti gli strumenti. Io ringrazio Roberto Ulozzi. Un'ultima domanda: dove farà le vacanze nelle prossime settimane? Ma guardi, io dal punto di vista delle vacanze, dato che viaggio molto durante l'anno, faccio cose stanzialissime, una decina di giorni a Lampedusa e un'altra decina di giorni in montagna, in uno sperduto villaggio delle Alpi biellesi che si chiama Piedicavallo. Ci Quindi, sto bene. Dalle Alpi al mare di Sicilia, in fondo attraversando tutta l'Italia. Grazie a Roberto Ulozzi di essere stato con noi questa mattina, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica.